24 mattino. Che bello! Cos'è, per me? Sì, papà. Tanti auguri, papà. È il mio regalo. E come si chiama questo? Katz. Come hai detto? Katz. Oh. Vedi, figlia mia, papà spende tanti soldi per mandarti in un collegio in Svizzera e farti avere la più migliore educazione. E tu dici queste parole? No, papà. Katz, in tedesco, vuol dire gatto. Oh. Se parli con Bon, come fai a non saperlo? Già, sai, io con Bon c'ho altri cani. I padri, i figli, il rapporto difficile, il padre della Boschi e sua figlia, che oggi querela De Bortoli, la madre di DJ Fabbo che fa venire la pelle d'oca in tribunale ricordando gli ultimi minuti della morte di questo suicidio assistito così drammatico, così raccontato, ma sempre nuovo, nei risvolti di dramma che ci rivela. E insomma, tante cose infuriano sulle pagine dei giornali di oggi, le vorrei leggere tutte, ma anche partire da questa testimonianza, da questo processo, perché c'è qualcosa di veramente terribile. Ma partire anche da una storia, una piccola storia infame, e oggi, come dire, il mio editoriale narrato è questo qui, la storia di un mago. Ancora una volta una ragazza che si consegna a un mago perché parte da una paura, da un bisogno che non le hanno insegnato a contenere, la paura della cellulite, e allora va da questo mago, questa ragazza a Roma, e gli chiede un aiuto. Viene violentata. La ragazzina, racconta Tiziana Paolocci, giornale pagina 18, le aveva più volte sentito decantare in giro le sue capacità guaritrici, e quando il problema estetico aveva iniziato a pesarle, aveva fatto ricorso a lui, al mago, sperando che potesse aiutarla. Il truffatore le ha prima praticato un massaggio con una pozione magica, pensate. E poi le ha detto: dai, vieni in bagno. L'ha portata in bagno, l'ha obbligata e l'ha costretta a subire dei rapporti sessuali con il pretesto: non è una violenza, è per toglierti il male, questa è l'unica soluzione per aiutarti. Ebbene, oggi vorrei che in mezzo a questo turbine di storie cominciassimo da questa schifezza, da questa infamia, da questa dabbenaggine, però anche dal vuoto di cultura che la produce, perché se noi ancora in questo secolo pensiamo che si possa dar retta ai maghi per guarire dal malocchio, dal disamore e dalla cellulite, allora vuol dire che il male non è nel truffatore, ma il male in noi. Va bene, cominciamo. Il giornale, visto che ce l'ho fra le mani. Furbetti della rete derubati da Facebook. I giganti di internet pagano poche imposte e lucrano con i nostri dati. Mucchetti, la web tax difende i cittadini. Voi sapete che c'è l'eco di un'intervista, quella di Marina Berlusconi, in cui ha detto addirittura che i giganti del web minacciano la libertà. E ne sentiremo gli echi e i contenuti fra poco. Repubblica, Etruria, scontro sul caso Boschi, l'apertura a tutta pagina del quotidiano diretto da Mario Calabresi, la campagna elettorale sulle banche e il fondo di Massimo Giannini, la foto centrale è il bando agli immigrati e c'è la foto di Trump in mezzo alle bandiere. Il Messaggero, il PM si difende, scontro sul caso Boschi, anche qui vedete sono molti che aprono, l'apertura è sulla polemica di Etruria, sul dietro front del PM Rossi che aveva testimoniato prima in difesa del papà, poi ha smentito, ora dice, virgolettato dal Messaggero: mai ho nascosto che fosse indagato, la sottosegretaria che si difende, c'è un attacco al PD, dossier della Consob sulla responsabilità dell'ex CDA della banca, occultarono tutti loro i rischi dell'investimento. Il fondo di Giulio Sapelli, se Londra adotta il modello Giappone, strategie di uscita dalla crisi. Il Sole 24 Ore, proprio sui giganti, Apple, accordo in Irlanda su 13, pensate, 13 miliardi di tasse evase. Il grande colosso statunitense verserà in un fondo vincolato le somme contestate dall'Unione Europea come aiuti di Stato. Ma poi c'è il fondo di Guido Gentili, il direttore del Sole 24 Ore. Lo leggeremo dopo perché è su un tema cruciale nello sviluppo di questo paese, Ilva e non solo, lo scandalo dei troppi silenzi, un fondo amaro, preoccupato, che parte dalla crisi aperta a Taranto da una denuncia, da un ricorso che potrebbe far saltare l'accordo per salvare il colosso dell'acciaio italiano. Lo leggo dopo, ma capite che questo è veramente uno dei temi importanti del giorno. Sempre sul Sole 24 Ore, e la, come dire, il titolo di spalla, robot e automazione, così la fabbrica diventa DigiLab in tempo reale, di Luca Orlando. E poi guida al decreto fiscale, richiesta di dilazione prima della rottamazione. Parleremo ancora dell'IVA sulle imprese, perché c'è un rischio molto grosso di cui il Sole ci mette a conoscenza, ma già ne abbiamo parlato nei giorni scorsi però. Il Foglio, quattro rivolte sulla questione irlandese rovinano il pranzo fra May e Juncker. Rischia di saltare l'Union Jack. La premier inglese accetta una proposta dura, ma nordirlandesi, gallesi, scozzesi a Londra si infuriano. Bruxelles, troveremo un accordo. Sta rischiando di saltare il Regno Unito perché è diversa, è l'opinione degli altri stati che lo costituiscono sulla questione cruciale della Brexit. Liberi uguale a Grillo, come orientarsi nell'ambiziosa scommessa di Grasso, fare del nulla assoluto un fascinoso programma di governo, è il fondo di Cerasa sul Foglio di oggi. Il Fatto Quotidiano, 1 milione di posti ma il miracolo non c'è, è un attacco a quella che viene definita la fake news di Renzi, la Della Sala, pagina 4. E poi il titolo, però il taglio centrale del giornale, che di fatto è un'apertura: la Boschi dopo 7 mesi denuncia De Bortoli e intimidisce Ghizzoni. Poi c'è una vignetta di Mauro che prende in giro Liberi uguali, equivoci a sinistra, Grasso leader, c'è un militante con una foto di Kim Jong, bello paffutello, e un D'Alema un po' perplesso che dice: ma cosa hai capito? La Verità, tutte le carte su Babbo Boschi, mai viste in commissioni banche. È quel caterpillar inchiestista che risponde al nome di Giacomo Adori, che su questo ha scritto decine di pezzi, ha avuto ragione anche sul procuratore Rossi. A dire il vero, La Verità, il PM di Arezzo Roberto Rossi scrive a Casini e si difende: ho risposto a tutte le domande. La Verità mostra i documenti e l'inchiesta sul padre della sottosegretaria di cui non si è parlato in audizione. Maria Elena accusa il colpo: se papà ha sbagliato paghi. La foto centrale, vedete che Grasso è entrato ormai in maniera dirompente nel dibattito pubblico, è una critica a Grasso, il presidente del Senato e capo di partito, il compagno Grasso. Il fondo di Belpietro, scacco matto al leader del PD. La Stampa, aperti a Grasso, tentazione Movimento 5 Stelle. Questo è un'apertura inedito su tutto il resto. Grillini in cerca di intese per il governo, ma Liberi uguali deve fare un buon risultato. Il presidente del Senato prepara un tour in Italia. Parisi guarda al passato, piano i Gentiloni per non scivolare sullo Ius Soli. Marcello Sorgi, il fondo, l'alternativa che nasce dalla fragilità. E poi la foto centrale, una notizia curiosa, si parla del Giappone, la locanda che non chiude, udite udite, da 1300 anni, ne parlerò nella mitragliata. La Gazzetta dello Sport, italiani avanti tutte, punto interrogativo, la Juve ad Atene si affida a Higuain, De Rossi, Roma, serata storica, e sono i giorni decisivi della Champions, ma si glorifica sui giornali, devo dire, non solo sulla Gazzetta, Spalletti come Mu, parla Moratti, esclusiva con l'ex presidente nerazzurro. Corriere della Sera. Si riapre lo scontro su Etruria, nuove accuse da MDP e Movimento 5 Stelle, Boschi, vicenda usata per attaccare me e il Partito Democratico, la gabbia delle vere fake news, Angelo Panebianco, la foto centrale del Corriere è sulla Brexit. E poi c'è buone notizie, quest'anno, oggi con il Corriere della Sera, Don Ricoldi e Oldani insieme in cucina per la buona tavola. E poi c'è il Corriere dello Sport, vale doppio, la Roma vuole due vittorie e una notizia sul mercato della Roma. Il Tempo apre con un fotomontaggio, la Boldrini imbavagliata dietro la bandiera delle Brigate Rosse, e una protesta per Salvini imbavagliato dietro la bandiera delle Brigate Rosse. Che cos'è? Ne parleremo fra pochi istanti. Avvenire, non più sani e salvi, sanità e emergenza per i non autosufficienti. E allora abbiamo fatto la panoramica, entriamo nel dettaglio immediatamente dopo la pubblicità e il meteo. Curiamolo. Leviamogli il metadone. State ascoltando un programma offerto da Fidelity International, soluzioni di investimento per costruire un futuro migliore. '24 mattino. Senatore Razzi, senta, allora, Kim Jong-un è tornato alla ribalta con un nuovo esperimento missilistico. La pace nel mondo è in pericolo? Guarda, io... questa volta può essere. Può essere. Io quando ho letto la notizia non ci ho dormito. Addirittura. Infatti al Senato stavo con gli occhi spalancati. Eh beh, certo. Che quando mai mi capita. Eh sì, quando gli capita di stare con gli occhi spalancati al Croz Razzi. Allora, al Senato no, ma alla Camera sì, è tempesta su Etruria, lo raccontiamo con la pagina 2 e 3, ma con tutti i giornali, il Corriere della Sera, Repubblica. Che cosa è successo? Per riassumerlo a chi non ha seguito tutto. Due giorni fa, audizione del PM che aveva indagato in Toscana all'inizio su Etruria, e che dice di fronte ai commissari che non c'è nessuna indagine sul papà della Boschi. Ebbene, si risente l'audizione, si ritrovano le domande dei commissari ed esce fuori uno che il padre della Boschi, non solo individualmente ma come tutti gli altri del CDA, è ancora è indagato e sotto indagine; due, che probabilmente il PM ha omesso questo dettaglio, e siccome la commissione ha poteri d'inchiesta, come se fosse equiparata alla magistratura, rischia addirittura di essere indagato. Scrive una lettera, dice: no, io avevo annuito, non avevo detto. Questo è su tutti i giornali, quello che trovate. Allora, Etruria, scontro sul caso Boschi, dopo le parole del PM, braccio di ferro su Ghizzoni. Ghizzoni chi era? Ghizzoni era l'amministratore di Unicredit che, secondo le rivelazioni di un libro di Ferruccio De Bortoli, aveva ottenuto la richiesta del ministro Boschi di salvare Banca Etruria, e ovviamente dopo tanti mesi in cui questa querella era aperta, ora la Boschi denuncia De Bortoli per questa rivelazione del suo libro Poteri Forti. Allora, il nuovo filone inchiesta, racconta Carmelo Lopapa, Roma, vi ho riassunto perché è una vicenda complicata, sulle vicende di Banca Etruria, aperto dalla procura di Arezzo, che coinvolge Pierluigi Boschi, scatena lo scontro finale sulle banche. Sono i giorni degli ultimi fuochi nella commissione parlamentare d'inchiesta presieduta da Casini. Nel filone finisce adesso il procuratore aretino Roberto Rossi, che giusto giovedì era stato ascoltato in bicamerale e che ci torna insieme alla sottosegretaria alla presidenza, figlia dell'ex consigliere di Etruria, Maria Elena, che esce dal silenzio e passa al contrattacco anche per vie legali. Cosa risponde De Bortoli? Apprendo che mi ha denunciato, grazie, punto. Molto sintetico, senza troppi giri di parole. Mi aspettavo l'annunciata querela che non è mai arrivata, replica via Twitter De Bortoli. Dopo 7 mesi apprendo che la Boschi mi farà causa civile per danni. Grazie. Qual è la differenza? Forse non tutti lo sanno. Querela, diffamazione, il giornalista rischia una condanna. Causa civile, il giornalista, se condannato, viene costretto a pagare un risarcimento economico. E però, che cosa sta accadendo? Fabio Tonacci da Arezzo su Repubblica, pagina 3, nuovo filone sulle consulenze per 13 milioni, il padre sotto esame insieme agli altri del consiglio di amministrazione di Etruria. Banca Etruria, sinonimo di Pierluigi Bossi, scrive Tonacci. Una parte per il tutto, che sia indagato o non indagato, prossimo rinvio a giudizio o proscioglimento, sempre lui, sempre di lui si parla. Come se il dissesto di una banca si potesse sintetizzare con un nome e un cognome soltanto. Eppure la politica tutta pare interessata solo alla sorte giudiziaria del padre della sottosegretaria Maria Elena. Da quando nel 2011 ha messo piede nei CDA di Etruria, racconta Tonacci, prima come consigliere e poi come vicepresidente nel 2014, Boschi per tutti era il muto. Eppure la sua sostanziale inerzia non gli ha impedito di finire sul registro degli indagati della procura di Arezzo, accusato di bancarotta nel primo filone che lo riguarda, di falso in prospetto e ricorso abusivo al credito nel secondo. Ora rischia di essere coinvolto in un terzo filone di inchiesta sulle consulenze facili. Secondo Banca Italia e il procuratore Roberto Rossi, una parte dei 13 milioni spesi in consulenze da Etruria fra il 2008 e il 2013 non era dovuta, perché affidata dal direttore generale Luca Bronchi senza mandato del CDA e poi con un esborso superiore al previsto. Così avete capito tutto: qual è l'inchiesta, che cosa è successo, cosa c'entra la Boschi, perché la Boschi ha denunciato Ferruccio De Bortoli. Il Corriere, sullo stesso tema, si riapre lo scontro su Etruria. E c'è il pezzo di Sarzanini, le tre falsificazioni del vertice della banca, così la delibera della Consob ha fatto scattare l'inchiesta. Nuove accuse su Etruria, Lira e la Boschi, questo è un pezzo di Andrea Ducci a pagina 2 che ci dice perché e come ha risposto la Boschi. Allora sentiamo, è giusto, anche la voce del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che su Facebook ci racconta Ducci, pagina 2, il Corriere della Sera, scrive: la verità è semplice, se mio padre ha commesso reati ne risponderà come privato cittadino. Al momento, osserva la Boschi, non è neanche rinviato a giudizio. Ma comunque, attenzione, è una sua vicenda personale, non del Partito Democratico. La Boschi inoltre annuncia che chiederà a Ferruccio De Bortoli dei danni per aver scritto che fu lei a sollecitare l'ex AD di Unicredit, Federico Ghizzoni, perché intervenisse a favore di Banca Etruria. Voi capite che è una vicenda molto complicata, molto gravida di effetti sulla campagna elettorale. Sergio Bocconi scrive un retroscena: l'azione civile 7 mesi dopo, la corsa contro il tempo per l'audizione di Ghizzoni. Sì, perché questo è veramente l'ultimo tassello che vi voglio dare, poi se no ci dilunghiamo, ma il punto è: ma Ghizzoni, che non poteva parlare per via di un accordo parasociale che hanno gli ex dirigenti, potrebbe testimoniare, se costretto a farlo, di fronte alla commissione che ha poteri inquirenti e di fronte alla magistratura. E allora perché non lo chiama la commissione che deve indagare su questo? Ghizzoni aveva detto: in commissione ci potrei andare, e il problema è politico e anche di calendario. La lotta contro il tempo in vista delle elezioni, scrive Bocconi sul Corriere. Nel caso si tenessero il 4 marzo, le Camere verrebbero sciolte prima di Natale. Se invece venissero fissate le elezioni per il 18, si andrebbe a gennaio. Non si tratterebbe comunque di un cambiamento capace di influire in modo significativo sui lavori della Commissione, la cui durata è legata alla legislatura. Ecco perché il tempo tecnico per sentire Ghizzoni ci sarebbe. Allora vi leggo ovviamente le due appendici su questo. Ladri nelle banche, l'ex capo di Unicredit ammette, anticipazione ancora del libro dell'ex direttore del Sole 24 Ore di Giuliano Zulin su Libero, e sulla Verità le carte che accusano, secondo il reportage di Giacomo Amadori e di Fabio Amendolara, pagina 2 della Verità, e le carte sul fido ad alto rischio che la commissione non ha visto, questo è ancora più interessante, pagina 3 della Verità. Secondo la Finanza, il comitato esecutivo di cui Boschi fu membro avrebbe rinunciato a esigere garanzie da un cliente debitore. Per l'istituto si è generato, pensate, un danno da 12 milioni. Vi leggo solo l'attacco. Abbiamo trovato le carte su Pierluigi Boschi che le opposizioni stanno cercando e contengono spunti interessanti, se non sorprendenti. Venerdì scorso il senatore Augello, membro della commissione parlamentare d'inchiesta sul settore bancario, ha chiesto al presidente Casini un supplemento di indagine sui rinnovi dei crediti di Banca Etruria da parte degli ultimi due consigli di amministrazione. Lì c'è il contenuto, lì c'è il cuore della polemica, se volete potete leggerlo. Allora, ho letto tante cose ovviamente su Etruria, il fondo di Sallusti in fase di commento, la querela e l'arma dei deboli politici contro giornalisti, ovviamente si riferisce alla querela a De Bortoli. Una notizia che mi ha colpito sul Corriere a pagina 8, sta a metà fra il costume e la politica. Sapete che la Serracchiani ha avuto coraggiosamente come dire, la tempra per raccontare qualcosa di sé, dire che lei per la politica ha dovuto rinunciare, ha messo in gioco la sua famiglia e oggi subisce un attacco, mi sento di dirlo, molto basso, molto brutto. Donne contro le donne a proposito di perdita della dignità è il titolo di un post su Facebook con cui la Serracchiani risponde a Sandra Savino, coordinatrice regionale di Forza Italia. Perché? Questo è il punto, Corriere, pagina 8. Aveva affermato la Savino che la Serracchiani è una donna senza figli e quindi difficilmente può capire davvero da governatrice quali sono le reali necessità delle famiglie. Per la Presidente che scrive questo post si tratta di una lunga serie di attacchi personali che tocca anche gli aspetti privati e come non darle ragione. Io penso che si possa attaccare, scusate, la Serracchiani su qualunque cosa, ma sia un tantino infame attaccare una donna che ha raccontato di aver perso il suo compagno e la sua famiglia per l'attività politica dicendole che non può amministrare perché non ha dei figli, anche perché siamo alla follia, tutti possiamo fare tutto con scrupolo, soprattutto nell'attività amministrativa, non è che serve provare l'eroina per sapere che l'eroina fa male, non è che serve avere avuto un figlio per capire di che cosa hanno bisogno le famiglie. Scusate, io la penso così, difesa tutta la vita della Serracchiani su questo punto, che è quello delle vicende più personali. Allora, Veneziani sul Tempo, pagina 4, vi segnalo ancora riflessioni sui simboli che sono molto importanti. Sono molto importanti, in questo caso si racconta come il nuovo simbolo della Meloni archivi AN, resuscitando, addirittura ingrandendo la fiamma del movimento sociale. Sul Giornale, perché qui parlo dei simboli, una vicenda importantissima e insomma stiamo parlando del fotomontaggio orribile con Salvini sequestrato tipo Aldo Moro e ne parlo dopo. Ci fermiamo per le strade. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Mattino. Vi dicevo, gli anni di piombo in Italia non finiscono mai, è stata una guerra, è stato un bagno di sangue, sono morti innocenti, ragazzi, magistrati, servitori dello Stato, è stata una macelleria di sangue su cui ho anche scritto, quindi sono molto sensibile, però trovo assurdo che ci sia stato qualcuno che abbia pensato di fare, pensate il cattivo gusto, un fotomontaggio di Salvini ritratto come Aldo Moro. Allora il Tempo risponde facendo un fotomontaggio della Boldrini ritratta come Aldo Moro e mi sembra, non so, non capisco perché la motivazione che dà il Giornale di Chiocci è che la Boldrini non ha parlato contro questo fotomontaggio. Chi parla contro è Massimo Malpica sul Giornale, così i simpatici brigatisti sognano Salvino incarcerato come il presidente della DC, un fotomontaggio shock ritrae il leghista nella prigione del popolo. E Salvini attacca, aspetto le parole di Renzi e della Boldrini. Si tratta di una pagina Facebook, cosiddetto 20 ribelle. Ma vi parlo dei simboli perché ancora c'è l'eco della cosiddetta bandiera del Reich Guglielmino, ora esce fuori, militare neanche una dell'Unione Sovietica. Poi c'è a Milano, pensate, sui muri dell'Ortica un murale Duce a noi cancella un murale con cui c'era scritto bella ciao. E poi la guerra a Spezia, Fausto Biloslavo contro i gadget della decima mass. Ma come se non bastasse, Giannino della Frattina attacca il sindaco di Milano Sala pubblicando una foto in cui Sala saluta con il pugno insieme a un consigliere del Partito Democratico. Forse troppo, forse si sta esagerando con i simboli degli anni di piombo. E allora su Repubblica, Benedetta Tobaggi, una bella segnalazione, un editoriale in cui condanna fermamente gli odiatori della memoria, l'insulto a Salvini, e spiega anche che quella è un'offesa soprattutto a Moro. Andiamo d'accordo. I più di questi laureati di Howard non valgono un cazzo. Serve gente povera, furba e affamata, senza sentimenti. A volte vinci, a volte perdi, ma continui a combattere. E se vuoi un amico, prendi un cane. E allora, se vuoi un amico prendi un cane, qui c'è da salvare un'industria. Allora leggo il fondo di Gentili perché è breve, folgorante oggi ed è in qualche modo paradigmatico. Il caso Ilva e non solo, prima pagina, il Sole 24 Ore. Nel vociare scomposto della politica con la testa e i piedi già in campagna elettorale, i silenzi sono a volte apprezzabili. Ma una condizione è che i silenzi stessi non siano il sintomo di una malattia più insidiosa e rivelatrice, più che di una saggia cautela di imbarazzanti e imbarazzati opportunismi. La vicenda dell'acciaieria Ilva di Taranto, la cui produzione vale grosso modo un punto di PIL, pensate, è esemplare. Accade che nella seconda potenza industriale d'Europa, alle spalle della Germania, si possa correre il rischio, sulla base di un ricorso al TAR della Regione Puglia e del Comune di Taranto, che l'investimento del primo gruppo siderurgico mondiale, la Mittal, vada in fumo. Addio acciaio, addio lavoro nel Mezzogiorno, dove il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, vede lo Stato come un nemico, virgolette, e insieme alla Regione, governata dall'ex magistrato Michele Emiliano, promuove l'ennesimo contenzioso nel segno del no. Il premier Paolo Gentiloni, scrive Gentili, il Sole 24 Ore, afferma che un grande paese trova il modo di non disperdere i capitali pronti a bonificare l'ambiente e a salvare il lavoro. Il ministro Calenda, a proposito del ricorso, parla di populismo istituzionale. Si alzano anche le voci delle imprese e dei sindacati, inizia il tira e molla su come uscire da questa nuova emergenza, ma tutto intorno silenzio, un operoso tacere, perché in fondo il tema è scomodo, ci sono per tutti i partiti le elezioni alle porte e nella sinistra è ancora tempo ai tormenti e veleni. I numeri e gli investimenti valgono meno di quelli dei sondaggi e che importa una figuraccia internazionale di dimensione mondiale? Silenzi diffusi, soffici rimozioni, difette importanti delle classi dirigenti pubbliche e private di tanta parte del mondo accademico, perché è facile parlare d'altro. Ad esempio, a un anno dal naufragio del referendum costituzionale che provava a ridurre il contenzioso, si discute in Parlamento dei rimborsi spese dei consiglieri del CNEL. Bene, questo è Gentili sul Sole e bisognerebbe che si accendesse un dibattito. Vi leggo le altre cose che stanno in questa pagina del money, del denaro, dei soldi e del motore che fa girare l'economia. E se mi trovo il foglio, eccolo qua. E Ryanair davanti all'antitrust, il giornale pagina 19, ma tutti i giornali, sicuramente sta accadendo molto. Detrazione, allarme imprese, il Sole, pagina 5, è un tema, un chiodo che si sta ponendo per via degli anticipi e dei meccanismi che sono stati previsti. Senza un emendamento alla legge di bilancio, la stretta temporale si trasforma in un prelievo di fatto. Il Sole, pagina 5, è così. Apple, Repubblica, il Sole 24 Ore, pagina 2-3, 13 miliardi di tasse concordate per pagare. Un accordo in Irlanda, lo racconto dal Sole con due pagine di articoli, costringe il colosso, oppure lo porta a miti consigli, la multinazionale, sto leggendo Gianluca di Don Francesco sul Sole, verserà 13 miliardi più interessi a partire dal 2018. E meno male, dico io. Sta saltando la Gran Bretagna per la Brexit, ve l'ho già detto. E poi, sul tempo, a pagina 9, l'ultima segnalazione veramente importante, Marina Berlusconi con la sua intervista in cui denunciava lo strapotere dei colossi del web, si è aperto un dibattito. Il Tempo, pagina 9, la presidente della Fininvest chiede all'Europa nuove norme e controlli. Facciamo un po' di raffica. Pensate, aumentano 10 morti al giorno e nel 2017 15.781 morti in più per le strade, sugli incidenti. E vabbè, Maduro, Bitcoin. Maduro deve aver sentito il nostro programma con Giannino, ha deciso di creare anche lui un Bitcoin legato alle sue riserve petrolifere, il Petro, sul Sole, a pagina 10. Io non investirei troppo di questi tempi. Sulla Stampa c'è un'associazione che unisce le attività commerciali più antiche del mondo. Pensate, c'è una locanda che è aperta da 1300 anni! Se volete comprarvi una locomotiva, dico, costa meno di un motorino, costa meno di un telefonino, a Rovigo, ce lo racconta La Verità, sono in vendita due locomotive per liberare i magazzini a 200 euro l'una. E infine la battuta meravigliosa della direttrice dell'agenzia mondiale che si occupa di garantire il tempo mondiale è un'italiana, Patrizia Tavella. Devo ammettere che sono una ritardataria cronaca. Ale, andiamo ai cani e gatti dopo il giornale radio.